È grave, è condannabile. La violenza che stiamo vivendo in tanti dei nostri paesi è una cosa molto strana, una cosa che l'Islam condanna, perché contro, ho detto e ripeto ancora, contro le regole, i principi, gli ordini dell'Islam, d'Allah subhanahu wa ta'ala e di Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. L'Islam, fratelli, una religione di pace. L'Islam, il saluto del musulmano e la pace, questo è il nostro discorso, il titolo di nostra khutbah, divulgare la pace, come ha detto Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Guardiamo prima di tutto che il nome, uno dei nomi di Allah subhanahu wa ta'ala, è la pace. Allah è la pace. Saluto dell'Islam e la pace. E questo ha tanti significati. Che il musulmano deve essere un elemento di pace, un elemento che vivi la pace, un elemento che diffusi la pace, propaga la pace, porta la pace verso gli altri, verso se stesso prima, e poi si vede verso gli altri. Certi possono dire che questi sono belli valori, belle nozioni, ma l'Islam non ha portato questo come una filosofia. L'Islam ha portato una pratica, e la pratica noi l'abbiamo nel modello di Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sua moglie, quando è stata chiesta su le qualità, sull'akhlaq di Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cosa ha detto? Un Corano che cammina sulla terra. Muhammad alayhi salatu wassalam, lui e i suoi compagni che erano con lui, da loro noi vediamo la pratica di queste regole, di questi grandi valori dell'Islam. E questa è la rahma dell'Islam, subhanallah. Quello che è ancora molto importante di vederlo, questo è la, posso dire, la grande, il miracolo grande dell'Islam, come l'Islam ha potuto cambiare, tirare la gente che sono entrati nell'Islam dal Jahiliya. Quando parlo del Jahiliya, non solo un periodo storico, Jahiliya è un modo di pensare che oggi c'è ancora. Certi oggi si comportano con la Jahiliya. Jahiliya è un modo di pensare. E tutto quello che vediamo oggi è la Jahiliya. La violenza diffusa, Jahiliya. I conflitti diffusi, una Jahiliya. Il miracolo dell'Islam era di togliere questa gente del Jahiliya, di togliere di loro le abitudini e i costumi del Jahiliya, il modo di pensare del Jahiliya verso le regole dell'Islam. Questo è il miracolo dell'Islam. Come ha potuto cambiare questa gente? Questa gente prima erano sempre in guerre, come oggi noi vediamo. Le guerre, i conflitti si fanno per cosa? Per una partita di calcio. Mio partito, è mio, mio paese, oh, il mio paese, la mia zona, no, la mia. Così è questo, Jahiliya questo. Jahiliya. Certi non muovono, si tocca, si sarà toccato l'Islam, niente, non fa niente, per lui non è problema. Basta toccare il suo partito di preferito e vedi lì. Questa, fratelli, è una immagine per vedere le cose in modo chiaro. Siamo tornati al Jahiliya. L'Islam è arrivato, ha tolto Inna akramakum inda Allahi atqakum. Il migliore di voi sono quelli che temono Allah Ta'ala. Non c'è questo, il mio nazione, il mio paese, il mio, la mia bandiera, no, la mia bandiera, la mia zona, dal nord, dal sud, nero, bianco, rosso, ricco, povero, non so cosa. L'Islam ha tolto tutto questo. Ha lasciato solo una cosa. Inna akramakum indallahi atqakum. Basta. Migliori da voi sono quelli che sono più vicini ad Allah Azza wa Jalla. Può essere quello che noi pensiamo, il povero, il meschino, che non ha niente, non ha valore, quello lì può essere più vicino ad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guardate, qui il miracolo dell'Islam. L'Islam non è arrivato solo a pregare Allahu Akbar, fai il wudu, fai il digiuno a posto, sei tutto in ordine. No! L'Islam è un modo di vita. L'Islam sono valori da vivere. Ogni giorno tu puoi fare una preghiera, può essere più pio, più vicino ad Allah, però il tuo akhlaq non è buono. E quindi annulla quello che ha fatto di bene. Come hanno detto il Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Ya Rasulallah, c'è una donna che fa tanta preghiera, che fa tanto digiuno, però fa male ai suoi vicini. Cosa ha detto il Nabi sallallahu alaihi wa sallam? Sarà nell'inferno, wal'iyadu billah. Non ha servito niente quelle preghiere, quel digiuno buono, quelle letture del Corano. L'importante è che con questo c'è anche l'akhlaq, il comportamento. Per questo noi abbiamo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Continuo, fratelli, a insistere su questo, perché siamo lontani del nostro modello, del nostro esempio, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E diciamo che noi lo stiamo seguendo. In cosa stiamo seguendo Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Se noi abbiamo lasciato tutti i suoi akhlaq, tutti i suoi buoni comportamenti, tutti i valori, tutte le cose che ha insegnato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noi non le mettiamo in pratica, allora dove, come noi stiamo seguendo Muhammad alaihi salatu wasallam? Non può essere questo giusto. Quindi torniamo all'Islam, inshallah, e mettiamo l'Islam nella nostra vita, mettiamo l'Islam nella nostra vita quotidiana, mettiamo l'Islam nel nostro rapporto con noi stessi e con gli altri, e poi vediamo che inshallah torniamo come erano i compagni di Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oggi cosa vediamo? Il vandalismo al grande, la criminalità al grande, la violenza, non parlo. Dove stiamo andando noi? Il musulmano è diventato un elemento di pace o un elemento di guerra? Normalmente il musulmano è un elemento di pace, come quella buona pianta che il Nabi sallallahu alaihi wasallam ha detto, l'utruja, una pianta perfumata, il suo perfumo è buono, il suo anche il gusto è buono. Questo è il musulmano, questo è il musulmano come era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando tu guardi il musulmano nella sua faccia, tu senti la pace, non senti che c'è la minaccia, non senti che c'è la paura, ti manda messaggi di paura. Questo da evitare, questo non fa parte dell'Islam, questo non fa parte dell'akhlaq di Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Torniamo quindi all'origine dell'Islam, torniamo al nostro modello, torniamo al nostro esempio, Muhammadun alaihi assalatu wassalam. Era una pace che cammina sulla terra, era un Corano che cammina sulla terra, e noi dobbiamo seguirlo. Il Bara' ibn Azib ha detto che il Nabi sallallahu alaihi wasallam ci ha ordinato di visitare il malato, di seguire il janaza, quando è morto uno seguire la sua funerale, di starnucire, dire rahimakallah a chi starnucire, di rispondere all'invito, di diffusire il salam, di propagare il salam, propagare il salam, ha detto il Nabi sallallahu alaihi wasallam, di aiutare chi ha subito una ingiustizia, di rispondere chi ha invitato. Tutti questi sono diritti, però diritti e doveri sono nello stesso momento. sono i diritti del tuo fratello, sono i tuoi diritti, ma sono i doveri del tuo fratello. E questo il musulmano, come ha definito il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noi oggi ci fermiamo solo sul saluto, salam, salam, salam. Il Nabi sallallahu alaihi wasallam ha raccomandato alla sua umma questo: dire salam, fare il salam, far sentire il salam, portare il salam verso gli altri. Così la umma vivi il salam, vivi la pace. Salam, fratelli, un nome di Allah. Salam è una anche educazione di angeli e dei profeti. Abbiamo il versetto 25 di Surat al-Dhariyat. Gli angeli, quando hanno fatto una visita al profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam, l'hanno salutato con salam. Lui ha risposto con salam. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Abbiamo anche il saluto dei angeli verso i credenti nel Genna. Cosa sarà? Assalam, la pace. Versetto Ar-Ra'd 23-24 indica questa regola. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم Poi il salam il musulmano deve farlo anche se entra a casa sua o a casa di altri. Abbiamo dei versetti, Surat An-Nur 26 e 27. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سورة النور 61. Quando entra porta con lui a casa sua, assalam, la pace verso gli altri. Non è che uno entra a casa sua e poi la gente hanno paura. Cosa ha portato? Cosa vuole questo? Bismillah, inshallah khair. Chiediamo Allah che sarà bene, che sarà pace, inshallah. Musulmano, quando entra a casa sua, la prima cosa comincia con cosa? Con il salam. Porta il salam a casa sua. Una regola, una educazione e un ordine divino. Stiamo parlando dei versetti del Corano qua. Il versetto 27 di Surat An-Nur c'è un ordine. Il versetto 61 di Surat An-Nur è un ordine, deve, un obbligo. Quando uno entra a una casa, a casa sua o a casa di altri, prima di tutto di portare il salam, un obbligo questo. Il salam, il saluto dei musulmani. Il salam fa crescere l'amore, fa crescere la fratellanza, fa ammorbidire i cuori, fa portare la pace tra tutti. E così ha detto il Nabi sallallahu alaihi wasallam: non potete entrare nel Jannah finché diventate credenti. E non diventate credenti finché diventate chiamati in Allah subhanahu wa ta'ala. Volete che vi indico una cosa che vi aiuta per avere questo amore, questa fratellanza? Portate il salam tra di voi, scambiate il salam. Fate diffondere il salam come un profumo che deve essere sentito da tutti. Però il salam, anche fratelli, ha tante regole, tante educazioni. Una, di farlo in modo chiaro, portarlo alla gente. Quando dico in modo chiaro, a condizione di non disturbare gli altri. E qua impariamo anche una educazione del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il Bara ibn Azib, un compagno, diceva: quando il Nabi sallallahu alaihi wasallam entra la sera, saluta in un modo di non disturbare quelli che dormono, di far sentire quelli che sono svegli. Subhanallah, guardate l'akhlaq di Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Oggi queste regole noi le impariamo in diverse scuole, università, le regole di comportamento. Come si comporta uno così bene per essere, mashallah, ben educato? Abbiamo questo da dove? Da Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Guardate, entra alayhi salatu wa sallam la sera, saluta in modo per non disturbare, perché il salam deve essere una pace, non deve essere un disturbo. Se il salam diventa un disturbo, non va bene, non funziona. L'altra regola è di farlo con una faccia illuminata, una faccia di pace. Quando uno saluta la gente, porta anche il saluto del suo viso verso gli altri. Non è che uno saluta con la lingua, il viso ti manda un messaggio di guerra. Non va bene questo. Non funziona questo. E non è dell'akhlaq di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kana alayhi salatu wa sallam talqa al-wajh. Sempre la sua faccia, una faccia, mashallah, di saluto, di pace. Questa era la faccia di Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Uno, quando guarda Muhammad sallallahu alayhi wasallam, prima di tutto cosa riceve? Riceve la pace. Solo di guardare. Dopo ascoltarlo, dopo frequentarlo, trova ancora più di pace. Però solo guardarlo è così. E questo è il musulmano, fratelli. Questo è il musulmano. Cerchiamo, inshallah ta'ala, di prendere queste regole, inshallah, di seguirle, di metterle in pratica, inshallah, azza wa jalla. Queste sono le regole che ha portato Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E raccomandato anche nell'Islam di salutare nel miglior modo possibile e di rispondere con il miglior modo possibile, come ha indicato Allah subhanahu wa ta'ala nel versetto 86 di Sura An-Nisa. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Chiediamo Allah subhanahu wa ta'ala che la pace torni tra di noi, che la pace sarà diffusa tra di noi, che la pace ci copri noi tutti, inshallah, nostri fratelli, i nostri paesi, tutta l'umanità. E chiediamo Allah subhanahu wa ta'ala che ci fa di noi elementi di pace, inshallah, per noi stessi e per gli altri. Chiediamo Allah ta'ala che ci fa tornare all'Islam e a seguire il nostro modello, il nostro esempio, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chiediamo Allah in quest'ora che saremo con Lui, inshallah, nel Jannah, e che beviamo, inshallah, della sua acqua di hawd, di hawd al-Nabi, alayhi as-salatu wassalam. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt, innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk, innahu la ya'izzu man 'adayt, wa la yadhillu man walayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin, وعلي بفضلك راية الحق والدين ورد بنا إلى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولوالدينا ولوالد المسلمين أجمعين. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تفرج كرب أخواننا في سوريا. اللهم فرج كرب أخواننا في سوريا. اللهم أطعمهم من جوع واسقهم من عطش واكسهم من عرى وكلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. فرج كرب أخواننا في العراق. فرج كرب أخواننا في فلسطين. فرج كرب إخواننا في بورما، فرج كرب إخواننا في كشمير، فرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحل علينا الأمن والأمان والسلم والإسلام. اللهم احفظ ديار المسلمين من كل عدو وظالم وحاقد ومفتن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح لنا في ذريتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.